Stai ascoltando Radio Forte, la web radio. Benvenute a tutte le orecchie in ascolto. Questa è sempre la trasmissione dedicata alla musica blues, questa volta ancora meno parlata del solito. D'altronde le chiacchiere stanno a zero, lo sappiamo. Uno dei tanti meriti di Eric Clapton è stata la capacità di riunire sul palco i più grandi colossi della musica blues. Nello spezzone live che vi sto per proporre, Clapton ha suonato con niente poco di meno che John Lee Hooker ed Etta James. Era il 1986, questa è la striscia del Treccia e state ascoltando Radio Forte. Loro sono John Lee Hooker, Carlo Santana ed Etta James. Tell me, baby. Tell me, baby. Want me do for you? Want me do for you? Tell daddy. Tell daddy. Tell daddy. What you want? Come to me. Got what you want. You need love. I got love. Come to me. You need a kiss. Come to me. Tell your mom what you want. Tell your mom what you need. Tell your mama what you gotta have. Tell your mama what you want. Yeah! bene bene bene, e qui mi fermo per passare ad un altro raduno di mostri sacri. Presenti i più grandi chitarristi, oltre a Eric Clapton ovviamente, l'immenso B.B. King, Johnny Winter, Buddy Guy e tantissimi altri. spell. Stai ascoltando Radio Forte. Thank you. giunti al termine di questa, stavolta solo mezz'ora, di musica dedicata ai Diavoli Blu. Bene, allora alla prossima e ricordate, le chiacchiere stanno a zero. Musica, non parole. Bella, alla prossima.